siamo in collegamento telefonico con Anna Meli del COSPE. Buongiorno Anna. Buongiorno. 21 marzo, giornata mondiale antirazzista. Il COSPE è da tempo impegnato in questioni che riguardano i media e i migranti. È stato fatto un monitoraggio che come COSPE avete curato. Ce ne vuoi parlare un po' di più? Da dove è nata l'idea e quali sono stati soprattutto i risultati? Sì, l'iniziativa è un'iniziativa europea portata avanti dal network online More Color in the Media. COSPE fa parte di questo network e quindi abbiamo realizzato, diciamo, in Italia sia una giornata del monitoraggio dei media, che era praticamente un esercizio quantitativo che il centro di monitoraggio dei media, il centro di monitoraggio sul razzismo e la xenofobia di Vienna ci aveva commissionato, e parallelamente abbiamo anche svolto invece una settimana del monitoraggio dei media analizzando soprattutto la stampa locale in Italia e quindi la rappresentazione delle minoranze etniche sulla stampa locale e sui media in generale. E quello che è emerso, diciamo, sia a livello europeo che a livello italiano, sicuramente è una rappresentazione relegata nella cronaca, soprattutto nella cronaca nera, una partecipazione delle minoranze etniche sia nelle dichiarazioni che come attori principali della notizia, legata appunto a questo, al crimine, alla devianza, e una scarsa attenzione invece a tutti gli aspetti culturali della società, di cambiamento della società, che vengono invece, come dire, anche quando vengono trattati dai media, vengono spesso trattati sentendo soprattutto autoctoni, quindi italiani, studiosi, esperti, ma sempre del gruppo, come dire, maggioritario. E questi, diciamo, sono i due dati che secondo me emergono in maniera decisiva, insomma, sulla rappresentazione delle minoranze etniche, ahimè, in Europa e anche in Italia, insomma. A livello di strategie per migliorare, se vogliamo, questa posizione, a livello europeo si sta lavorando su qualche progetto? L'idea della settimana di monitoraggio nasce anche per quello, cioè non per fare un monitoraggio fino a se stesso, ma il monitoraggio proprio come strumento, soprattutto nelle mani, diciamo, delle minoranze etniche stesse, che dovrebbero in qualche modo acquisire gli elementi e i dati per dialogare con gli operatori dei media. E secondo me la cosa interessante che è venuta fuori e che è emersa da questo tipo di iniziativa europea è proprio stato l'interesse che gli operatori dei media stessi, in primo per tutti l'International Federation of Journalists, ha mostrato per questo tipo di iniziative, chiedendo proprio online di una collaborazione più stretta su questi temi. L'International Federation of Journalists ha già emanato, diciamo, e redatto alcune prime raccomandazioni che sono scaturite proprio dalla lettura del rapporto, ma l'idea è quella di cercare in ogni realtà nazionale un collegamento e quindi di lavorare proprio insieme, in stretto contatto con gli operatori dei media affinché migliori la loro qualità dell'informazione sulle società multiculturali e quindi migliori anche la rappresentazione delle minoranze etniche nei media. Questo è un po' il senso dell'iniziativa, ecco. Tra le altre cose, mi sembra che il COSPE si è anche occupato invece della stesura di un manifesto per promuovere i media multiculturali. È un'altra iniziativa che si è svolta a livello europeo, se non mi sbaglio. Il manifesto europeo dei media multiculturali nasce dalla consapevolezza praticamente che, visto che la rappresentazione su cosiddetti media mainstream è così negativa, è nato il bisogno in tutti i paesi europei di autorappresentarsi, e quindi gli immigrati, le persone di origine etnica minoritaria in quasi tutti i paesi europei hanno cercato di rispondere a questi bisogni propri di autorappresentazione, di informazione nella propria lingua madre, moltiplicando quelli che sono gli strumenti media a favore nelle lingue dell'origine, dell'appartenenza etnica, e appunto riguardanti e soprattutto mirate al target immigrato. E questi media multiculturali sono adesso una realtà importante sia appunto proprio per, come dire, strumento di informazione delle loro comunità, ma anche come ponte verso le realtà e le comunità autoctone. Vanno sostenuti, vanno valorizzati, e il senso del manifesto sta proprio in questi due obiettivi. L'obiettivo è quello proprio di cercare di di farli riconoscere come servizi di interesse pubblico in tutti i paesi europei, anche chiaramente a livello di Unione Europea, e quindi di supportarli nelle loro accesso alle frequenze, nella loro programmazione, nelle loro pubblicazioni. Il manifesto sta praticamente, la campagna per il sostegno del manifesto sta avendo un buon successo in tutti i paesi, e le firme si possono raccogliere online sul sito www.multicultural.net. esiste proprio uno spazio dedicato alle firme e alla sottoscrizione quindi del manifesto, e anche sul sito del COSPE, tramite il sito del COSPE è possibile quindi aderire al manifesto. Guardiamo invece al futuro, però con un ponte con il passato. Il COSPE si è da sempre occupato di questioni legate ai media e alla multicultura. Nel 2000 è addirittura nato MMC 2000, che era il Multicultural Multimedia Channel, messo su proprio da un operatore immigrato che lavorava presso il COSPE. Uso l'imperfetto perché purtroppo la persona è scomparsa, ma il COSPE ha pensato bene di ricordarlo. C'è un premio giornalistico che partirà fra poco. Di che cosa si tratta? Sì, il premio è intitolato alla memoria di Mustafa Suir, che era un nostro collega e che appunto, come dicevi, è prematuramente scomparso a Durban durante la conferenza mondiale contro il razzismo. E l'idea è nata, diciamo, quasi immediatamente dopo la scomparsa di Mustafa. Mustafa era stato, come dicevi, il promotore di questo sito, di questa radio virtuale, che aveva avuto un ottimo successo, e insieme a questo promotore di moltissime attività legate appunto al tema delle media e immigrazione all'interno del COSPE. L'idea è stata proprio quella di cercare di valorizzare, diciamo, l'esperienza di Mustafa stesso, dedicandogli un premio, che è un premio che quest'anno appunto verrà assegnato soprattutto alle produzioni, ai format radiofonici, un premio di 5.000 euro alla miglior produzione radiofonica multiculturale, e il premio verrà assegnato appunto da una giuria qualificata, direi, il cui presidente è San Leonard Tuadì, ma in cui fanno parte moltissime esponenti sia del mondo giornalistico che universitario. E poi ci sarà un premio alla carriera che vorremmo appunto dedicare a una persona di origine immigrata che si è particolarmente distinto nel mondo dei media mainstream. E niente, il senso dell'iniziativa è proprio questo: cercare di valorizzare, al di là di appunto le persone che stanno dietro, quelli che si diceva prima, i media multiculturali, ovvero le persone che promuovono questi tipi di attività, e che sono spesso appunto persone o che hanno acquisito nei paesi d'origine o qua una competenza nel campo della comunicazione e del giornalismo in particolare, e che spesso non riescono a spendersela allo stesso modo appunto in Italia. E la valorizzazione di queste persone è importante perché noi vorremmo sempre di più vedere anche nei mezzi a larga diffusione persone di varie nazionalità, di varie provenienze etniche, perché questo avrebbe un impatto fortissimo sull'opinione pubblica, e quindi riteniamo che questo premio sia, come dire, un piccolo contributo a questa nostra strategia, a questi nostri obiettivi. Anna Meli del COSPE, ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro. Grazie a voi.